più forte sapore, la conquista violenta, che in benigno consenso, io di sospiri e di lattiginosi alle lunari, opago, non sottrarre a cordi di chitarra, punto.